Ciao a tutte e a tutti, questa è la Mucca Libera, siamo su Radio Asilo, questa è la terza puntata della nostra trasmissione. Riprendiamo il discorso dove l'avevamo lasciato la volta precedente, lunedì scorso, parlando dello spillover. Spillover che è un termine scientifico, ma è anche il libro di uno studioso, David Quammen, che ha, diciamo, previsto ormai 8 anni fa, in un suo testo scientifico, tutta la situazione che stiamo vivendo adesso sulla diffusione della pandemia, sulla diffusione del coronavirus come una pandemia che si è diffusa purtroppo in tutto il pianeta. Spieghiamo un po' chi è questo autore, che adesso, insomma, è molto, molto ascoltato, adesso direi purtroppo, perché bisognava ascoltarlo prima, soprattutto leggere quello che ha scritto nel 2012. Quammen è americano, dell'Ohio, ha 72 anni, e nel 2012 appunto ha scritto un saggio narrativo pubblicato dopo 2 anni, appunto nel 2014, da Delphi in Italia, che anticipa esattamente quello che sta succedendo con la pandemia di Covid-19. Il libro si intitola Spillover, come dicevo prima, e ne ha parlato un po' tutta la stampa in questo periodo. È stato intervistato su numerose riviste, tra cui anche la lettura del Corriere. E spillover è il termine che indica il salto di specie di un agente patogeno, di un virus. E leggiamo un po' che cosa ci dice Quammen in questa intervista sulla lettura. Delle cose molto interessanti che purtroppo riguardano un po' tutta la vita che stiamo subendo, direi, più che altro in questi giorni. E gli chiede Paolo Giordano sul Corriere: Quammen, le pandemie sono dunque destinate a diventare più frequenti? E risponde Quammen: probabilmente sì. Epidemie e pandemie continueranno a crescere a meno che la minaccia non venga affrontata in maniera responsabile. Non parlo solo dell'attualità, mi riferisco a un approccio più a lungo termine, a misure in grado di identificare nuovi virus pericolosi, di mettere in guardia contro nuove invasioni, di preparare le risorse e le capacità umane per contenere e sconfiggere simili contaminazioni, prima che si trasformino in disastri. La domanda successiva è: che cosa è successo? Perché il numero delle epidemie è cresciuto? La risposta è: tutto ha un'origine. I nuovi virus diffusi nella popolazione umana provengono da animali selvatici. E continua a rispondere Quammen: gli ecosistemi terrestri ospitano numerose specie animali, ognuna delle quali è portatrice di patogeni unici e peculiari. Nel momento in cui si distruggono le foreste per ottenere legname o ricavare metalli, oppure si uccidono centinaia di specie per uso alimentare o per immetterle sul mercato, si espone il genere umano a tutti questi virus. Offriamo cioè loro l'opportunità di trasferirsi dagli ospiti animali alla nostra specie. Negli ultimi decenni queste attività sono aumentate in maniera esponenziale. Tutto ciò ha rotto l'equilibrio dell'ecosistema e interferito prepotentemente con quello della vita animale. Come se non bastasse, la popolazione umana è aumentata fino agli attuali 7,7 miliardi. È una polveriera se si considera anche la facilità di movimento di un mondo globalizzato. Tutti questi fattori hanno contribuito ad aumentare il rischio di frequenti spillover, ossia invasioni di nuovi virus nella nostra società. La conclusione di questa intervista, arrivando un po' alla fine, e soprattutto consigliando la lettura di questo testo di Adelphi, che riassume un po' tutta la diffusione delle varie epidemie di coronavirus nelle loro differenti forme, la conclusione, gli chiedono che cosa sta insegnandoci o che cosa dovrebbe insegnarci come specie, come esseri umani, questa pandemia. La risposta di Kwame è: nessun uomo è un'isola, nessuna donna è un'isola, nessun pipistrello, pangolino, zibetto o gorilla lo è. Siamo tutti connessi dalla storia evolutiva, dal nostro dover coesistere su un pianeta così piccolo. Condividiamo spazi, condividiamo risorse e a volte può capitare, condividiamo virus. Tuttavia, noi esseri umani siamo fortunati, poiché dominiamo il pianeta e possiamo contare sull'intelligenza e una capacità di adattamento speciali. Credo sia giunto il momento di usare queste capacità non solo per creare con la massima urgenza test per il coronavirus, medicine antivirali, vaccini per scongiurare la diffusione del contagio. È giunto il momento di ritrovare l'umiltà e capire come trattare con il massimo rispetto il resto del mondo vivente. E questo è un po' l'auspicio che ci facciamo anche noi rispetto a quello che è il rapporto con le altre specie che popolano questa terra. Abbiamo parlato dello spillover, che è appunto il salto di specie dell'agente patogeno e quindi della correlazione che c'è tra la pandemia e la questione degli allevamenti animali e la questione dello sfruttamento animale. Riprendendo un po' il ragionamento su che cosa significa lo spillover rispetto appunto al rapporto che abbiamo come specie umana con le altre specie e con gli altri animali, volevo fare una premessa rispetto al dibattito che c'è anche nel mondo antispecista ultimamente, perché si possono leggere numerosi commenti anche sui social, in cui si parla appunto, molte persone sui loro profili parlano in maniera diretta del rapporto che c'è tra la pandemia, la diffusione della pandemia e lo sfruttare gli animali, il mangiare gli animali. Altre voci del mondo antispecista cercano invece di relativizzare appunto questa relazione e di metterla con più cautela rispetto a una comunicazione che si può fare all'esterno da parte del mondo antispecista. Perché dicono, insomma, può diventare un boomerang affermare che tout court, diciamo, ammazzare gli animali, mangiarli, possa portare alla diffusione delle pandemie, per cui è una semplificazione dire se vi mangiate la carne, poi allora ecco, questo è il motivo per cui abbiamo la diffusione del coronavirus. Questo dibattito mi sembra comunque interessante, direi, anche se poi magari le cautele possono essere frutto di una soggettiva, diciamo, un discorso soggettivo, insomma, poi ognuno comunica come vuole sui social, innanzitutto a mio parere, poi non penso che ci sia da difendere chissà quale ragionamento di base, anche perché come spesso capita, sempre le voci antispeciste sono tacciate di estremismo, quindi non penso sia questa la prima volta. Comunque, a prescindere da questo, penso che la cosa importante sia, più che relativizzare, sia approfondire il discorso e capire a fondo se esiste o meno una relazione, quanto è forte questa relazione tra il coronavirus e gli allevamenti intensivi, e il coronavirus, le pandemie e lo sfruttamento degli animali. Cerchiamo innanzitutto di fare un focus. Il primo focus di questa puntata riguarda appunto qual è il collegamento fra il coronavirus e gli allevamenti intensivi rispetto a un articolo molto interessante che si può trovare sul sito vegolosi.it, scritto da Federica Giordani, che ci dice queste parole che sono molto, molto interessanti. Allora dice: pipistrelli, pangolini, cammelli, civette delle palme. Abbiamo provato orrore e ribrezzo in questi ultimi mesi davanti alle notizie che arrivavano dalla Cina e che mostravano che cosa si vende nei mercati umidi asiatici. Gli animali selvatici, nuova prelibatezza e vecchia risorsa, pangolino viene cacciato illegalmente da 70 anni, vengono catturati, contenuti in gabbie accatastate una sull'altra e macellati al momento. Non ci sono frigoriferi per poterli mantenere freschi per i clienti. Il virus che ha infettato il primo essere umano, generando la pandemia nella quale siamo immersi, la Covid-19, viene dai pipistrelli e arriva dalla Cina. Forse c'è stato un animale ospite intermedio, il pangolino, ma forse no. Il sangue di uno di questi animali, o la sua saliva, sono arrivati fino ad uno dei clienti del mercato e da lì al resto del mondo. Sembra difficile, così, trovare un collegamento fra questa storia e le vaschette da 6 cosce di pollo vendute ad un prezzo ridicolmente basso nei pulitissimi e sterilizzati supermercati occidentali. Eppure il collegamento c'è. A raccontarlo passo passo è un articolo accuratissimo del quotidiano The Guardian. Il biologo evoluzionista Rob Wallace, del Agroecology and Rural Economics Research di Minnesota, spiega: se si vuole capire perché questa pandemia è accaduta ora e non, diciamo, 20 anni fa, dato che il gusto dei cinesi per quello che noi occidentali consideriamo un piatto esotico non è una novità, bisogna includere una serie di altri fattori. Possiamo dare la colpa all'oggetto, il virus, la pratica culturale, ma la causalità si estende anche alle relazioni tra le persone e l'ecologia. La catena delle cause è lunga, ma è chiara. Vediamola. A partire dagli anni 90, la Cina ha ampliato i suoi sistemi di produzione alimentare su scala industriale. Un effetto collaterale di questo, come hanno documentato gli antropologi Fernley e Linteris, è stato che i piccoli agricoltori sono stati tagliati fuori dall'industria zootecnica. Alla ricerca di un nuovo modo per guadagnarsi da vivere, alcuni di loro si sono rivolti all'allevamento di specie diverse, selvatiche, e si sono avvicinati alle zone sempre più remote della Cina, quelle nei pressi delle foreste, sempre più minacciate da questa espansione. Gli animali allevati, come gli zibetti, sono vicini alla mercé fisicamente di quelli ancora allo stato selvaggio. Nulla impedisce che un pipistrello morda o defechi nella gabbia di uno zibetto che si infetterà di un virus tipico di quell'animale, creando quell'amplificatore della zoonosi. La zoonosi è una malattia che passa dagli animali all'uomo, facendolo diventare poi pericoloso per l'uomo, se non altamente letale, come nel caso di Ebola, dell'HIV o del virus Nipah. Solo questione e colpa di chi mangia le cose strane e a nostro avviso ributtanti? Nemmeno per sogno, perché dietro a questo cambiamento ce n'è stato un altro nel modo in cui viene prodotto il cibo. I moderni modelli di agroalimentare stanno contribuendo alla comparsa sempre più frequente delle zoonosi. C'è chiaramente un legame tra la comparsa di virus dell'influenza aviaria, altamente patogeni, e l'intensificazione dei sistemi di produzione del pollame, dice l'epidemiologo spaziale Marius Gilbert dell'Università di Bruxelles in Belgio. Più animali come polli, anatre e tacchini, gli uccelli, va ricordato, sono stati alla base di molte zoonosi nel corso della storia umana, più di molte altre specie. Quindi dicevamo, più animali come polli, anatre e tacchini vengono stipati insieme e fatti riprodurre in modo meccanico, industrializzato, creando delle famiglie di cloni genetici, ossia animali che fra loro hanno pochissime differenze, che permetterebbero ad un virus di incontrare una certa resistenza immunitaria e quindi quello che in virologia viene definito semaforo rosso. Più il rischio che il virus si rafforzi, essendo amplificato e attacchi l'uomo, è alto. Ricordiamoci che negli allevamenti di polli o simili, gli operatori, anche se coperti e muniti di mascherine, sono a contatto con milioni di animali e con i loro corpi macellati, il loro sangue e il loro respiro ogni settimana. In uno studio del 2018, il team di ricerca di Gilbert mostrò come gli eventi di conversione, storici, per esempio, un ceppo di influenza aviaria non molto patogeno diventato molto più pericoloso, si verificano nel sistema del pollame commerciale e più frequentemente nei paesi ricchi. L'Europa, l'Australia e gli Stati Uniti avevano generato più virus potenzialmente pericolosi per l'uomo della Cina. Ad un certo punto l'articolo mette in evidenza un concetto che forse avrete letto in giro. Davvero ci si domanda, se avessimo mangiato tutti meno carne, non ci sarebbe stato il Covid-19? L'articolo risponde, le affermazioni sono in parte vere, anche se i collegamenti che si tracciano spesso sono troppo semplicistici, è ormai evidente che il modo in cui la carne viene prodotta, e non solo in Cina, ha contribuito al Covid-19. La catena di causa-effetto potrebbe essere parzialmente riassunta e di molto semplificata in questo modo. La distruzione degli ecosistemi, per esempio con la deforestazione per avere nuove aree coltivabili a soia, per mangimi animali o per avere nuovi terreni da adibire a pascolo, ma anche l'uccisione di miliardi di animali selvatici, portano all'esposizione sempre maggiore di virus naturalmente dedicati agli animali selvatici, che arrivano più vicini ad animali e sistemi di produzione, che poi finiscono nei nostri piatti. La pressione ecologica che l'uomo sta mettendo in atto, il famoso antropocene, distrugge equilibri che proteggono anche la nostra salute. Perché, come ha spiegato benissimo il professor Stefano Mancuso, che dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale, se crediamo che il mondo si sia sviluppato per competizione, sbagliamo di grosso. Il mondo funziona per cooperazione. Il problema è che noi come specie non stiamo affatto cooperando con la natura, della quale facciamo parte appieno e nulla come questa pandemia ci sta rimettendo al nostro posto. Lo stiamo solo depredando, distruggendo, sfruttando e mangiando letteralmente, credendo che modificando l'ordine dei fattori il risultato non cambi, e invece cambia. Se non cambieremo rotta, se pensiamo che tornare alla nostra vita di tutti i giorni significhi riprendere con i nostri stili di vita, soprattutto alimentari, come se nulla fosse stato, questa del Covid-19 sarà la prima di una lunga serie di pandemie con le quali dovremo fare i conti. Non sarà mai più possibile sostenere che quello che mangio riguarda me è una scelta personale, perché non lo è affatto. Mette in pericolo tutti ed ora forse il motivo è più chiaro. Bisogna cambiare, non entro l'anno X, bensì da subito. Ricordiamoci che la prima cosa che possiamo fare per arginare tutto questo è facile e veloce. Dobbiamo cambiare alimentazione ed escludere da subito carne e derivati dalla nostra alimentazione. Questo è l'articolo veramente molto interessante che mi sento di condividere, perché poi alla fine, per quanto il rapporto, appunto, come abbiamo ascoltato, sia mediato e relativo, alla fine si stringe sempre di più la relazione tra comportamenti umani contro gli animali, sfruttamento e appunto diffusione delle malattie e delle pandemie. Quindi, diciamo, il discorso alla fine mi sembra molto molto chiaro.